Eccoci con Riccardo Biadene, regista del documentario Alain Danielou, Il labirinto di una vita, che sarà in sala a Roma il 6 febbraio al Maxxi, l'8 febbraio all'Apollo 11 e il 9 febbraio al Cinema Farnese. Riccardo, ben ritrovato. Bentrovati a voi. Raccontiamo subito questa storia, di cosa si parla? È la storia della vita piuttosto straordinaria di quest'uomo che ha trascorso 20, più di 20 anni della sua vita in India ed è tornato in Occidente contribuendo in modo consistente a rendere più comprensibili non soltanto diciamo le forme culturali di questo paese, ma anche la musica ha dato un enorme contributo a ciò che venisse conosciuta nel mondo, non soltanto quella dell'India, ma quelle cosiddette musiche tradizionali che si è impegnato a registrare in diversi paesi del mondo, come il Laos, la Cambogia, l'Etiopia, l'Afghanistan, firmando la cura della prima collana UNESCO di World Music della storia. Dico una vita straordinaria perché effettivamente provenendo da una famiglia francese con un fratello cardinale e figlio di una fervente cattolica, amica del Papa e di un ministro socialista, ha intrapreso e trovato se stesso in un altrove. Assai distante, cioè l'India, dopo esserci arrivato in macchina già nel 32, a 26 anni ed essere stato ospite da Rabindranath Tagore su indicazione di André Gide, un comune amico, e aver scelto quindi di stabilirsi in un primo periodo in Bengala e poi nel cuore dell'India tradizionale, cioè a Varanasi, a Benares all'epoca, studiando il sanscrito, l'hindi, iniziando a fare un grosso lavoro di traduzione e soprattutto di immersione in una cultura che effettivamente si sviluppa e si snoda attraverso categorie ben differenti da quelle occidentali. Come sei venuto a conoscenza di questa figura e come hai deciso poi di filmare? Il suo libro io l'ho letto a 16-17 anni perché me lo diede mio nonno, ma la relazione in realtà con l'India nasce prima perché c'ero arrivato anch'io via terra, vale a dire con un lungo viaggio in camper di un anno da Venezia appunto all'India e la fortuna ha voluto che in seguito, la fortuna per me perché è stato un'avventura che in realtà dura tuttora perché continuo a seguire e occuparmi di spettacoli di musica e di danza indiana, e nel momento in cui la fondazione da lui fondata, la fondazione Find, mi ha proposto una collaborazione per, appunto, relativa soprattutto all'attività artistica o musicale e poi ha scelto di, come dire, mi ha investito della fiducia di raccontare la vita piuttosto singolare e straordinaria di quest'uomo. Senti, com'è strutturato il film? Beh, il film era il problema principale, come si potrà desumere vedendolo, era riuscire a riassumere, a sintetizzare una vita così ricca anche non soltanto di eventi, ma di discipline a cui quest'uomo ha rivolto la sua attenzione. Dunque ci è sembrato sin da subito che l'unica possibilità percorribile fosse quella di riattraversarne i luoghi, ovviamente incontrando anche i testimoni ed amici del suo tempo, e restituire la suggestione di qualcosa che ovviamente non è interamente ricostruibile ai giorni nostri, ma riuscire ad evocare l'epoca e il modo in cui lui può aver vissuto anche l'India di quel tempo, l'India tradizionale, un'India che forse non è più né quella attuale, neppure ovviamente quella rappresentata nel documentario, attraverso il medium fondamentale del suono, vale a dire una ricca composizione della colonna musicale che ovviamente già di per sé costituisce un patrimonio inestimabile, perché per mia fortuna ho potuto avvalermi delle registrazioni dell'UNESCO che hanno in qualche modo contribuito a fare la storia della musica non occidentale, però grazie a lui, anche grazie a lui, ma soprattutto forse grazie a lui, le musiche tradizionali hanno trovato anche in Occidente ruolo e la dignità che all'epoca la musica occidentale non riconosceva, se non alla classica appunto da noi prodotta, quindi Sì. occidentale. Riccardo, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Esiste il sito che è www.alendaneludocfilm.com e esiste il sito della piccola casa di produzione che è la mia, la Kama Production, con cui abbiamo coprodotto il lavoro. Esiste ovviamente il sito di Find che l'ha prodotto, che è il find.org.in, mentre kamaproduction.eu. Ci tengo così anche a dire con gioia che dopo queste proiezioni, intanto appunto il film che è uscito dalla Vision d'Israel e in Italia ha fatto la sua prima biografilm per poi essere presentato al Festival di Venezia, sta camminando bene perché continua a fare proiezioni, ma abbiamo ricevuto anche una proposta, una richiesta dell'UNESCO di organizzare una proiezione a Parigi. Dunque il 15 ottobre faremo una proiezione all'IRCAM. Chiedo scusa, il 15 febbraio faremo una proiezione all'IRCAM, ma su invito, e la prima francese sarà a Parigi, nella sala dell'UNESCO. Il documentario è stato comunque presentato anche in altri paesi, in Spagna, in Portogallo, e stiamo organizzando diverse altre proiezioni, speriamo che possa essere, come dire, un cammino di lungo corso. E siamo molto contenti di vedere che appunto inizialmente ci sembrava fosse un lavoro che si rivolgeva principalmente ad un pubblico di interesse indologico, musicologico, invece mi sembra che sia un lavoro in grado di parlare ad un pubblico molto più ampio, e questo chiaramente è motivo di soddisfazione. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il film Alain Danielou, Il labirinto di una vita di Riccardo Biadene a Roma il 6 febbraio al Maxxi, l'8 febbraio all'Apollo 11, il 9 febbraio al Cinema Farnese. Riccardo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, alla prossima!